Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoon animati. Can't get my mind off your phonograph. Wanna put a ring on your little finger. When I propose to you, you just laugh. You squish me flat with your thumb and finger. When I call you up on your telephone, you always say that you want me to come over. You shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. You shake, shake, shake, shake. Your feet jump so dumb, then when you roam, cocaine and drugs and alcohol. The one to fend from you, girl. The one to fend from you. The one to fend from you. The one to fend from you. L'avviso precisava che si sarebbe trattato di un disagio temporaneo. Nei 5 giorni successivi avrebbero sospeso la corrente per un'ora, a partire dalle 8 di sera. Era caduta una linea elettrica durante l'ultima tormenta. I tecnici avrebbero approfittato delle serate più miti per rimetterla in sesto. I lavori avrebbero coinvolto soltanto le case della tranquilla strada alberata, a un passo dai negozi e dalla fermata del tram, dove Shoba e Shukumar abitavano da 3 anni. Questo era l'incipit di Disagio temporaneo, dall'interprete dei malanni di Jhumpa Lahiri. Make a living from contract bridge, more than magnificent. Surely you're amazed by it. Now we are not worthy of friends. Open wide for sergeant books on. Hide your dreams from capital. Everybody needs to eat. worthy of pith. Face the facts, we're back in luck. Turn on the light and wake me up. Now we are not burdened by love. Gli ultimi 30 minuti di Eclettica della settimana, beh, ormai di quei 30 se ne sono andati quasi 6, 7 e quindi ne rimangono un bel po' di meno. In compagnia di Giulio Caperdoni, tutti i giorni tra le 19 e le 20 qua sulle frequenze di Rock FM. Stati Uniti, con cui abbiamo aperto quest'ultima parte, ovvero sia con The Blakes che ci siamo ascoltati con il pezzo dal titolo Two Times, poi Galles, Future of the Left, ascoltati con Suddenly It's a Folk Song, e questa è la canzone che si è appena chiusa. E ritorniamo negli Stati Uniti, una formazione composta da 8 elementi, provengono dal Texas ma ora fanno di base a Los Angeles, per ora solo EP, non ancora un album di lunga durata. I Make This Sound, questo è il nome della band, e invece Everything Means Something è l'EP da cui vado ad estrarre Holiday. Nothing but a little chicken. Gotta get bad before it gets good. Gotta get bad before it gets good. Gotta get bad before it gets good. I want it good now, but it's gotta get bad before it gets good. That's what you say. It's gotta get bad before it gets good. See, stick with me, you know that you should. Cause it's gotta get bad before it gets good. You say trust me, but just me. Put your faith in me, then wait patiently. Keep on telling me lies, I'll believe you, believe you. Keep on telling me lies like I need you, I need you. You say it's hard now, but good things come from this. So I'll keep on living on your

Era questa la ipnotizzante attributo che utilizzo per le canzoni che mi entrano sotto pelle, I Want You Back, da parte dei neozelandesi Shocking Pinks. Prima ancora dall'Inghilterra era stata invece la volta dei Day One con Bad Before Good. Una manciata di minuti alla chiusura di Eclettica e i prossimi saranno con la grande atmosfera creata da Klimek, ovvero sia Sebastian Meissner, artista tedesco di Berlino che ha pubblicato per la Compact negli anni scorsi e che invece è appena uscito con l'Anticipate, con un nuovo album che ci permette di creare una grande atmosfera per 4 minuti e poco più, con il pezzo dal titolo The Ice Storm. fly! Huh? Is your name Marty McFly? Yeah? I've got something for you. A letter. A letter for me? That's impossible. Who the hell are you? Western Union. Actually, a bunch of us at the office were kind of hoping maybe you could shed some light on the subject. See, we've had that envelope in our possession for the past 70 years. It was given to us with the explicit instruction that it be delivered to a young man with your description, answering to the name of Marty, at this exact location, at this exact minute, November 12th, 1955. We had a little bet going as to whether this Marty would actually be here. Looks like I lost. Did you say 70 years? Yeah, 70 years, 2 months, 12 days to be exact. Here, sign on line 6, please. Follow you now. I follow. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 5, volume numero 5, indice, Sigur Rós, Wanda Veer, The Manhattan Love Suicides, Bob Dylan remixato da Mark Ronson, Sarandon, Hayden, Meredith Bragg, The Blakes, Future of the Left, I Make This Sound, Day One, Shocking Pinks, Climec, Film School. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.